Due testi sul cucchiaio nell'orecchia. I poteri. I poteri di questo supereroe consistono nell'invecchiamento. Si stanca facilmente, gli viene una cataratta, fa 75 anni, il menisco cede, si dimentica le cose. Domenicale. Il cancello è folto di riccioli in ferro battuto. Piacciono e interrompono il nostro mutevole sguardo attraverso. Come mutevole è lo sguardo dell'uomo attraverso il cancello e i suoi riccioli in ferro battuto? Ma chi batté il ferro e lo resse su solidi cardini? Mai il mutevole uomo se lo domanda.